due volte al giorno fumava la pipa e beveva il suo quarto di birra. Era di animo risoluto, senza nascondigli di paura. Anzi, diceva di essere contento. Il giorno del boia era vicino.